Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Secondo i risultati del progetto europeo Cycle Logistic, oltre il 50% delle merci che vengono consegnate in città potrebbero avvalersi per percorrere, diciamo, l'ultimo miglio di cargo bikes, quelle biciclette attrezzate appunto per il trasporto merci. Ieri abbiamo visto che esistono, insomma, vari tipi di questi mezzi di trasporto che possono arrivare fino a 250 kg, cosa abbastanza sorprendente, ma soprattutto abbiamo visto che le cargo bike sono competitive, vabbè, dove la geografia del luogo lo permette, ecco, questo va detto, con i mezzi di trasporto convenzionali, con costi di consegna che possono addirittura essere la metà o un terzo di quelli che fanno riferimento ai mezzi tradizionali. Per non parlare naturalmente dei benefici per l'ambiente e per la salute del padroncino, come si diceva una volta. Di tutto questo ieri abbiamo parlato con Giulietta Pagliaccio, che è presidente di FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che è tornata a trovarci. Eccoci qua. Buonasera Pagliaccio. Buonasera a tutti voi, è sempre un piacere. Allora, senta, le chiedo, gli operatori della logistica come stanno guardando a questa possibilità, a questo scenario che si sta anche via via chiarendo negli ultimi anni, anche in termini di potenziale, come abbiamo visto? Beh, mi sembra che ci sia molto interesse, tant'è che io ho partecipato di recente a un convegno internazionale proprio organizzato da questo mondo di imprenditori della logistica. C'è interesse perché in effetti sta diventando sempre un po' complicato consegnare le merci in alcune situazioni, centri storici chiusi o con pagamenti di congestion charge, ad esempio. E dunque si sta guardando a questa possibilità con molto molto interesse. Anche perché poi appunto dal punto di vista economico regge, anzi sembra addirittura dare dei benefici. Tra l'altro ci sono dei trend, mi pare di poter dire, che sono tipici della nostra epoca, che vanno proprio in questa direzione, no? Beh, direi di sì, sta cambiando il nostro modo di vivere le città e anche il nostro quotidiano. Il fatto stesso di avere l'opportunità, ad esempio, di fare molte spese attraverso l'e-commerce, stando davanti a un computer, ci permette poi di avere la possibilità di avere la merce direttamente a casa. E allora anche in questo caso questo tipo di consegna viene incontro a questa necessità. Arrivo a dire che posso tranquillamente in alcune situazioni fare a meno di acquistare un'auto, certo, perché ho questi strumenti che mi permettono, questi servizi, di far fronte a quelle, certo, che sono magari con l'aggiunta del car sharing. Tra l'altro questi sono tutti elementi di razionalità anche per il traffico, no? Perché pensiamo a una persona che va al supermercato e torna, compie un tragitto abbastanza lungo per portare poche cose, mentre i corrieri, come dire, fanno, certo, fanno molti meno chilometri per consegnare molta più roba, per cui più merce viene consegnata in quel modo, più si liberano le strade sostanzialmente. Senta, chi è che sta lavorando intensamente su questo tema? C'è qualche città che magari sta proprio spingendo? Beh, ci sono città con degli esperimenti molto interessanti, come Parigi ad esempio, con dei grossi operatori che ci stanno investendo su questo tipo di attività. Però, anche per non essere sempre sterofili, la stessa Milano ha degli esperimenti molto interessanti con degli imprenditori che io chiamo illuminati, perché va detto, questa cosa è anche un'imprenditoria nuova, quindi giovani che si sperimentano in questo tipo di attività. E quindi è sicuramente un esperimento molto molto interessante per le nostre città. Ho detto Milano, ma mi viene in mente anche Vicenza, ad esempio, per rimanere un po' più nella provincia. Lucca, che da tanto tempo lavora su, esatto, questi temi, no? Esatto, esatto. Senta, ma in generale le città si pongono il tema del governo, della consegna delle merci, o una di quelle robe che viene lasciata al buon cuore degli operatori? Purtroppo ancora troppe città, parliamo delle realtà ovviamente più grandi e più complesse, non affrontano adeguatamente questo problema, mentre magari sono impegnate nel governare il traffico e la sosta delle auto, magari non riescono ancora o non hanno ancora affrontato il tema del governo del trasporto delle merci, che è una grossa fetta del traffico cittadino. E dunque questo è un tema che le amministrazioni pubbliche devono cominciare veramente ad affrontare. Ecco, senta, ma concretamente un'amministrazione pubblica che volesse stimolare, diciamo, lo sviluppo di un trasporto sull'ultimo miglio con cargo bikes, che cosa può fare? Dico una cosa impopolare. Innanzitutto quelli che sono i centri storici dovrebbero essere veramente aree dedicate solamente ai cittadini e quindi ad un uso soft della città, e quindi impedire l'accesso a queste aree così delicate, ma riorganizzare anche gli spazi urbanistici della città, questo è fondamentale. Togliere spazio a determinate situazioni come può essere il carico scarico grosso significa però dare alternative per un altro genere di attività di questo tipo. Grazie Giulietta Pagliaccio. Grazie a tutti quanti voi. Continuiamo a parlare di questi argomenti perché è il futuro. Noi ci proviamo. Grazie. A domani.